Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. E a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole? Di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. Signore, prendendo la croce con tanto amore e pace, hai dimostrato l'infinita fiducia nel Padre. Gesù, grazie perché hai abbracciato la croce con amore. In quel momento hai abbracciato tutti noi, hai stretto a te tutti gli uomini che sono esistiti dall'inizio e fino alla fine del mondo. Grazie Gesù, perché ci ami, anche se siamo deboli e fragili. Benedici le nostre croci, i nostri dolori, le nostre sofferenze. Signore, qui davanti a te, desideriamo pregare per tutti coloro che sono delusi, che si sentono infelici perché hanno la croce e non riescono ad accettarla o non sanno come portarla. Apri i nostri occhi, apri gli occhi del nostro cuore, affinché possiamo comprendere che abbracciare, portare e amare la croce è la via della gioia. O Gesù, tu hai redento il mondo con la tua croce, liberando l'amore nei cuori di tutti. Gesù, libera le nostre mani legate, sciogli il nostro cuore di pietra e donaci la grazia di saper portare la croce senza timore. Signore Gesù, fa che le virtù che la croce produce siano la nostra eredità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù.